te balla, te balla. Ma chi te l'ha facendo qui? Tu hai pesato 68 all'altra? Ah, 14. No. Ma se non hai toccato l'imperenza? Se non hai toccato l'imperenza, quanto sia? 50, spero, sì. Microfono in amplificazione. Qua sì, perfetto. 5, perfetto. No, no, qua va bene. Forse è troppo vicino a te, lui non lo so. Qua è perfetta, 9, 5, radio 5. Prova, prova, prova. No, questa è, cioè, più acuti rispetto all'altra, vale. C'ha più acuti, questo qual è? Lo Iaesio con il 60. È più acuti, c'hai, boh. Allora, modulazione perfetta. Tonalità praticamente più acuta, più tonalità alta, capito? Quella là è un medio-bassi, medio-bassi, però vanno bene tutte e due. Questo è un bel forte, questo è forte, come si dice, e certo, una tonalità più acuta e più amplificata rimane me. Ciao Fra, buonasera, ben sentito, evidentemente siete in zona tiro, capito? Queste radio sono così, anche a me a volte mi ricordo troppo forte, qui, là, dipende dalla vicinanza. No, no, va bene Valerio, sia con una che con l'altra, se no gliel'avrei detto, ci mancherebbe altro. Avanti Valerio. Quello grande, stai attento che quello è, mamma mia, anche a me un giorno lo stavo passando lo straccio, mi è sparito il dispetto, cosa ho toccato? Sant'Antonio mio. No, tocchese, vabbè lì, quello lì è tutto automatico, vale, capito, l'altro magari già è più facile, ma quello lì basta che lo spegni, lo riaccendi, fai il reset in automatico e ti appare nuovamente il display, non è un problema. Però è successo anche a me Burendolo che mi è sparito il display, mamma mia, non ho capito cos'era, poi ho visto lì mettere, ho iniziato a toccare e è apparso tutto, capito? Avanti Fra. No, ancora questo che ha mangiato adesso, vale. Ciao Fra, buon Rick. Sì, sì, sì, sì. Hai toccato dove c'è scritto DISP, DISP. C'è un pulsantino, se leggi in alto, adesso mi ricordo a destra forse. Dove c'è scritto DISP, display proprio. Se tu pigi quello lì, ti toglie la frequenza che c'è scritta, capito? Praticamente. E sicuramente pulendolo l'hai toccato. No, pensavo che ti si era zerato, spostato da solo, quindi se si sposta da solo basta lo riaccendi e lo spegni, cioè lo spegni, lo riaccendi e non succede niente. Quello già fa tutto, già cammina da solo, dai. Mentre il 80 invece è diverso, quello già è un baracchino come questo a sintonia continua. Ah, io attacco l'altro, mi biasi la tonalità medio-bassa a me. Questo è un altro tipo di radio, questa c'è medio-bassi come questa, no? Si sente la tonalità acuta e i bassi sopra, mentre quello là è molto acuto, caspita. Non sarei mai immaginato quell'abbinamento lì, l'ho fatto proprio così, perché ci avevo due MC, no? Di cui uno però era già con la connessione Iaesio, che usavo col 1200, capito? Perché ne avevo uno solo di MD100, no? Già l'hai visto. E quindi ho preso a provare, minchia, quando lo sento mi sono spaventato, e non credere che cali molto a me, vabbè, anche perché se consideri quello là in AM mi pare che ne ha 30, modulati 40, una cosa del genere, non pensare che siamo pochi. Io questo lo uso sempre a 25-30 watt e non di più, quindi in linea di massima il segnale non cala, è diversa la radio, ma il segnale è sempre quello. Sì, vabbè, il segnale è il tuo, comunque non cambia niente. Sì, sì, io l'avevo già provato quello là, l'ho usato in AM. E 30 watt di importante, cioè proprio piena, poi 35 così, quando moduli, capito? Trova molto bene in AM quello lì, una bella radio. Non pensavo, ti ripeto, che l'abbinamento Kenwood di Iaesio fosse buono in AM, ma di solito questi microfoni, questi 60 si abbinano molto bene un po' a tutte le radio, sia da Iaesio che anche agli ICOM, è molto bene il 60 con l'ICOM. Io ne ho uno solo adesso, ma come capita l'occasione mi ripasso l'SM20 all'altro e mi metto un altro 60 con 756, capito? Perché spinge veramente tanto, la modulazione è molto bella, mi piace, non so sentite una PF molto bella, bella, bella corposa. Sì, te l'ho mandato, te l'ho detto il messaggio, fatti sentire tu, rimani qua, ci facciamo due risate, mi fa un po' entrare a pignare. C'era Eugenio, ieri è passato Eugenio, abbiamo fatto un impiantino nel camper, che lui c'è un bellissimo camper, che c'era un baracchino tutto diroccato, ne abbiamo messo un altro, ripreso tutto, e adesso finalmente anche lui sorride, ha fatto la sassa al portatore sempre cantando. Mamma mia, lascia perdere, ho dovuto seguire io, ed era dietro casa, e adesso la faccio, torno indietro, ma se sei arrivato devi tornare indietro. Poi siamo andati a prendere il caffè da casa, no, di sotto casa d'Antonello, dove siamo andati l'altra volta con te, si stava già perdendo, dove devo girare? Ah, vai dritto, se sei lì, non avvi a casa d'Antonello, sì. No, non è abituato lui a girare molto in città, capito, esce e va fuori città, eccetera, però, vabbè, questa zona non è che la conosce molto, però d'Antonello ci va spesso, da casa di Antonello arrivare a casa mia gliel'ho fatto vedere, sono praticamente in folle ci arrivi, capito? Siamo uno attaccato all'altro, ce l'hai visto così. Vabbè, no, ci abbiamo fatto due risate ieri, Sant'Antonio. Ui. Attento Marco, Ratta Pignara ci sei? Dovrebbe essere ancora in coma, mi, due sono le cose. Ho il coricato, poi è andato a pulirsi la macchina perché ieri l'ho attantarato. No, ma quello era... sono piccolezze, capito? Un po' di polvere, un po' di... qualche pietrolina nel tappeto, non è niente. No, lì c'erano proprio di tutto di più. Quindi penso che oggi si sia messo di buona volontà e l'abbia dato una sistemata. Cioè, gliel'ho detto, tutto, di tutto. Libera tutta la macchina, proprio non ce ne c'è niente dentro. Poi vieni qua e noi andiamo e la labbiamo. Te lo offro io la faccio, non c'è problema. Mi stamattina me l'ha portata mio genero. Adesso viene di nuovo a prendersela anche l'altra. E me la lava, quindi non c'è problema. Non ho di quelle di difficoltà per lavare la macchina lì. È sempre bella pulita e ordinata. Vabbè. Vediamo se c'è Eugenio che poco fa era col camper, che stava facendo pulizia anche lui, che è andato al carnevale ed era tutto pieno di coriandoli. Attento Eugenio, ecco Eugenio, vai per Valerio ad Alghero, vai. Valerio, non lo senti a Eugenio? Ma lui è un portatore se però. Eugenio, mi sa che a casa ci vuole un aiutino, Mi sa che ci vuole un aiutino, cosa dici, glielo mettiamo un BV131, un centinaio di watt, piccolino? Ehi, ma lo passi da 5 a 10 watt, non è ciambalusa, se invece da 5 watt passi a 70-80, allora è diverso. Se decidi fammelo sapere, capito? Che abbiamo un BV131 fermo, no? Lo mettiamo subito a correre lì. Fammelo sapere che problemi non ce ne sono. Bellino, quanto è un baracchino, è una cosa così piccolina. Però è valvolare, capito? C'è una valvola, 220, attacchi la spina. Lo regoliamo, è lui dal canale 1 al canale 40, non ha problemi di regolazione, tutto ok. Almeno c'è un aiutino, capito? Non lo capita così con noi, non c'è problema, non vedi? Capita magari uno di Alghero, uno di fuori, non ti sente, ti schiacci il pulsantino e vedi che già ti sente. Tu l'importante non tocca se, vai lì. No, adesso abbiamo sistemato il camper e poi sistemiamo anche il resto. No, sei a casa. Quello sì, la posizione di Sandro è completamente diversa da quella sua, va lì. E Sandro è nella piazzola di Balai, capito, quella zona lì, quindi è chiaro che lo riceve meglio. Lui è all'ingresso del Porto Torres, all'interno poi lui rimane all'interno, capito, c'è una strada che lo porta più all'interno, proprio all'ingresso, non è in città. Vabbè, sicuramente sì, non aveva 5 watt. Eugenio c'ha 5 watt, capito? 5, te lo porta a 10. Ma qua è Santiago Rompe. Lo vedo io, lo vedo. Però da te deve superare tutta la collina lì di Monte Alvaro, Quindi è un po' diverso. Vabbè. Metteremo a posto anche quello, Eugenio. Vedrai che uscirai meglio, riprendi. No, col campo già lo scelte, non lo dici. Andavamo anche a risalire sotto casa tua, poco fa, aveva di Santiago 7 qua, quindi ottimo per la truppa, va bene, va bene. E allora Valè, sono più sentito a Giuseppe, ha più sentito, davvero, sono preoccupato, l'ultima volta ci siamo sentiti, stava andando benino, così, però bisogna sempre andare lì e sistemare, trovare un microfono, non ne ho più visto di M60, ce n'era uno l'altro giorno su internet, ma costava una barca di soldi, 95 euro, ma vabbè, perché sono 120 euro me lo compro nuovo, ma stai scherzando, devo trovarne uno a 70 euro, 70 euro, vediamo, se lo trovo, vale, glielo metto lì, così mi porto giù quell'80 e vado di controllarglielo. Vabbè, l'importante stia bene. No, invece non era per niente pippante, vale. Maita c'era la pressione bassa, non stava bene, capito? Che la vista stava continuando a perdere colpi, per quello ti ho detto sono un po' preoccupato. Se è vero che non si sente, le do un colpo di telefono a vedere. Gava, gava, vabbè, lui lì non tocca, sono un casino. Avanti Eugenio. È bella truffa. È arrata Pignara, mi. Beh, Marco lì, ma adesso ti sei alzato, mi c'è anche Valerio. No, ci mancherebbe. Eravamo ad Orsan, abbiamo preso due cosette che mancavano, mi siamo arrivati adesso, da due minuti. È tutto così. No, stanotte ho dormito male, ho dormito fino alle 4 e mezza, ma poi un inferno. Non sono riuscito a dormire bene, mi sono dovuto rifare la mattina perché non... Diciamo che ho dormito male, ho sognato anche peggio, ho sognato cose terribili. Mamma mia, che ti sei ribaltata la macchina, ti ha caduta tutta la mondezza sopra. No, no, cose più brutte. Per carità. Vabbè, mi devo rifare stanotte. Fate girare, io fra poco mangio, dai, perché sennò non va bene. C'è troppo poco di vario dalle 8 a mezzanotte poi. Dai, fai girare Claudio. Vale, hai sentito la tappignare? Sognato scemi della macchina, madre de Dios. E vedi, sta calando il sole ed esco io. È più che azzeccato il nominativo, dai. Bene, bene. Anzi, mi guarda, Claudio ieri è stato anche troppo discreto. Claudio non ha detto niente. Gliel'ho ricordato io, ho detto, Claudio, di lì, quando era pulita la macchina. Se no è stato anche troppo discreto, dai. Vai, vai, vai. No, no, 4 watt. Questo è il Superstar 3009 omologato, che ha 40 canali e 4 watt. Noi se attaccassi lineare aumenterei di 2 Santiaghi in più. Sono sempre liscio perché ho paura di farti guai, cioè preferisco non attirare attenzioni su di me, sai. Meglio il quieto vivere, dai. Vabbè, però per dolce abbiamo preso una specie di crostata all'ananas, crema e ananas. È una specie di crostatina, è bassa, non è una torta. Però come dolce va bene, mi. Io non mi guarda, ma danno ha fatto me. No, no. Ah. Ho detto, guarda, io non bevo, non fumo, ma il dolce è il mio vizio, il dolce è il mio vizio, Eugenio mi può capire. Perché anche Eugenio mangia dolci. No. Va bene, va bene. No, qua già li fa mia figlia lì. Stasera non è a lavoro, che ieri è rientrata tardissimo, alle 2:30 mi pare. Che c'era una festa e quindi ha lavorato stamattina, stasera non ci va e ho visto che stava impattando, forse un altro start anche lì sta facendo e a me mi ha comprato la panna cotta, mi pare, siccome ci abbiamo tutte le attrezzature qua, vale. Ci abbiamo il bimbi, quindi fa tutto lui, ci abbiamo il robottino, metti dentro, imposti, capito? Infatti adesso dopo glielo dico, imposto, voglio mangiare 2 ali di pipistrello, vediamo se riesco a mangiare. Nome nominale la panna cotta, Claudio. Mi ci fare il bagno dentro. No, io non... Guarda, a me piace molto la crema catalana. Forse perché ne ho fatto un'indigestione con mamma, mia sorella, perché sono tutti algheresi, quindi la fanno anche buona. Ma la panna cotta proprio no. È un vizio... Un vizio bisogna averlo, dai, perché... C'è chi c'ha il vizio del gioco, c'è il vizio del fumo, del bere. Io, visto che adesso non ho vizi, nemmeno a trombare, visto che non mi sto cercando nemmeno fidanzata, dolci. Sto affogando i dispiaceri nei dolci, capito? Mi sono sempre piaciuti, non c'è niente da fare. Piuttosto anche col diabete mi faccio il doppio dell'insulina, ma mi mangio i dolci al costo del coma diabetico. È più forte di me, dai, riprendi Eugenio. Eugenio è palito, è Eugenio. Oh, sto per mangiare, mi lavo le mani, a dopo, ciao. Ehi, vai a mangiare, vai, già siamo qua. Non proprio, Eugenio si deve essere lontano. Hai capito, Vali? Il ragazzo, Sonia, hai capito? Sonia. Comunque Marco, l'hanno trovata quella degli punti, Marco, l'olio alle ali ci deve mettere lui, deve mettere l'olio alle ali, capito? Vola colomba bianca, vola fra, ma non di voi andà, non tocca se. Ali, mamma di Turchi, è un bestione, Marco, è più alto di me. Bello robustello, ma è una fogna mangiando, mangia tutto, però devo dire che non è uno di quelli che, capito, a questi orari balordi, perché noi siamo andati a cena assieme, e non è un grande mangione, mangia piano piano, tranquillo, cioè sono quelli che divorano, portamene un altro, no, lui mangia tranquillo, e questi orari sfasati che c'ha, capito? Noni, aspetta. Poco e spesso, Vale. Io ho lo stomaco piccolo, devo mangiare poco, ma mangio spesso. Capito? Mangio a ratte. Ok, dai. A dopo. Ti ho detto, Marco, lì l'hanno trovata quella degli punti, eh? A Visidio l'hanno trovata, morta. Morta? Ma è morta di cosa? Non si sa. Dietro casa sua era, sai dove è Visidio, no? Capito? Lì. L'hanno trovata morta stamattina, ecco perché nel giornale non c'era niente. Aspetta, poveretta, ma dice che la nuova dice che era in stato confusionale prima. Non le sarà venuto qualcosa, un ictus, qualcosa alla testa? Ha vagato per le campagne e poi è morta di morte naturale. Poveretta però. Ma tu mi avevi detto che era imparentata con non so chi. Mandami un messaggio. Con WhatsApp già lo ricevo. Perché io non. Dal cognome non. Il cognome non mi diceva niente. Vabbè, lui è il marito che hai conosciuto lei, magari no, capito? Vabbè, è stato confusionale, un palo di palle. Non è stato confusionale, vabbè, se uno va via è chiaro che se ne va via di casa così e esce per scappare c'è una motivazione sempre, no? O che sia mezzo guasta o che pure ha paura di qualcosa, capito? Non lo so, comunque anche l'altra volta adesso ci sono degli aggiornamenti, alle 4:30 non c'erano degli aggiornamenti sulla Nuova Sardegna, però ancora non si esprimono, ma sembra a prima vista che abbia dei segni, quindi adesso vediamo. Mi dispiace, caspita, se la serie era molto tranquillo, a parte quello là che aveva ammazzato la moglie, che dice che era scivolata sull'anguria, sì, sulla buccia della banana di tua sorella è scivolata. Ah, la moglie l'ha ammazzata lui, era quello del coltello che stava tagliando l'anguria e gli è scappato il coltello. Una razza di fantasia che... Ma quella era? Beh, da quello lì poi a Sassari non si è sentito più niente, boh. Quello l'altra volta con l'accetta nella zona di Via Tereda, boh. Quell'altro che aveva arpionato la ragazza, cioè cose così, capite? Però omicidi veri e propri Sassari non è che sia nell'occhio del mirino, Già c'è qualche guasto ogni tanto, Io vorrei fare una strage, ma di, capito, di piscuani, di questi vermi schifosi che ci sono, fare un po' di pulizia, però non me la sento. Sì, che poi le sbarre sono brutte, mi. Sì, vabbè, a me ti hanno a mangiare, vabbè, tutto, c'è la televisione. Capito, Marco? Non fai nulla la mattina alla sera. Lo so. E a me io ci andrei tranquillamente. Basta che avrei il baracchino nella cella. Ah, vale. A parlare tutto il giorno. A me basta che ci sia il letto e la televisione. Ah, cosa ne so io? Infatti non riesco a capire. No, ma poi macchine. Adesso tu fai lo sgarro a qualcuno, subito ti incendieggia nella macchina. Pagano questi tossici di merda che ci sono, 50 euro, capito? Vai, ti incendia la macchina. L'altro giorno sono passato di via Grazia Deretta, Marco. Quelle che hanno incendiato, una la porta via, una è quella lì. È la nuova, c'è la targa. FA mi sembra, una macchina di neanche un anno. Una Citroen C3 di ultima generazione, incendiata. Ed è proprio lì davanti all'angolo, all'officina di Roberto, che c'era il baracchino, Roberto Meccanico. Proprio lì all'angolo rimane, capito? Una nuova di targa, quella gelosia, qualcuno che, capito? Chiamano, ma te hai comprato. Però a me non mi hai dato quelle 100 euro che mi dovevi dare. Ah, adesso ti faccio vedere io. Bastardi, che a trovarli, vale. Avrei incendiato insieme alla macchina, no, non si scherzano. Sì, ma il problema è sempre quello, non sei un diverbio con qualcuno, perché stai a riprendere con la macchina? La macchina non ti ha fatto niente, prendila con me, ti posso rispondere, ci possiamo confrontare, capito? Perché stai a riprendere con la macchina? Sono carogne quelle sono vere carogne, miserabili carogne, che non sanno affrontare la realtà, capito? Perché bisogna affrontare la realtà, se tu hai un problema, fini, ne parliamo, poi se si arriva alle mani, chi se ne fotte? Chi si difende o chi si sa difendere ne esce vivo, ma no, te lo devi prendere con la macchina, ma no, carogne sono quelli brutolenti, che miserabili. Vai genio, hanno accennato anche mio cugino, Gavino, ma cioè. Una classe a Veccia, 2 anni per incendi, cosa hai fatto? Cosa l'hai incendiato? Una macchina di 1.000 euro, vabbè, cosa hai fatto? Sei contento adesso? E l'ex assessore Gabino Gaspa, poi posso dire che è una persona molto molto tranquilla, quando era seduto lì ha sempre dato, mai avuto, perché non pure insieme a cugino, comunque ce ne sono di peggio, però anche lì politicamente, cioè uno fa qualcosa per il proprio paese, per la propria comunità, e tu vai e cosa spari, guarda a nuovo, passa davanti a casa, ti sparano, mettono fuoco alla macchina, in pericolo di ammazzati, una roba da matti, lasciamo perdere, per carità. E così è, caro Valerio, sì, anche Alghero, ma da poco lì nella zona tua proprio, mi sta dicendo mia sorella, la pietraia dietro, proprio dove abita mia sorella, ne hanno incendiato una, e non si sa manco di chi è con la macchina, tu figura, cioè così uno passa, la incendia, non sa manco di chi è. Va bene, quella è gelosia, perché quando uno si compra una macchina di lusso intanto se lo può permettere, nessuno deve essere geloso, uno, e poi vuol dire che ha la possibilità, che lavora, ha un tenore di vita che le permette di fare quello, ma anche una macchinetta, una macchina vecchia, quando tu vai a distruggerla, uno a un poveraccio, capito? E quello, solo quella c'ha, dei a piedi, lo metti in difficoltà, non può andare a lavorare, capito? Tante cose, il mezzo di trasporto, ognuno sa di sé, io ne ho di nuovo quasi 3 di macchine, perché ci siamo accorti che non si poteva stare con una sola, e quando a me mi bruci la macchina mi ha tolto il pane, perché io ci vado a lavorare, per il resto è una macchina vecchia, una macchina che io ho preso giusto per andare a lavorare, per coprirmi dal freddo, per non stare l'inverno in moto, eccetera eccetera, capito? Perché così stava succedendo, mi stavo ammalando andare a lavoro con la moto, e quindi ho preso la macchinetta e mi consente di spostarmi. Non è una Mercedes, se non è una macchina che ti consente di spostarti, se te la fanno fuori è sempre un problema perché ti mette in difficoltà, capito? Però ripeto, quelli che hanno questi attentati così, sono attentati da balordi, sono attentati di gelosia, a meno che sotto non ci siano cose veramente, veramente importanti, veramente brutte, allora è un'altra cosa, però anche in quel caso lì te la prendi con la persona che te la devi prendere, non te la prendi con la casa, non vai a buttare la bomba nella casa, prendi fucile e spari così all'impazzata senza sapere se dentro ci sono bambini, se ci sono persone che non ti hanno fatto niente. Ah sì, uno ha gli aronia, sì, un miserabile. La realtà bisogna affrontarla, o nel bene o nel male, non si teme mai niente. Se si può arrivare ad un accordo, se le persone sono umili, se le persone sono che ragionano poco, si curino una giuscia, si scegli degiani e via, ciao, arrivederci, buon viaggio. Ma cazzo, ma non te la prendere con la famiglia che non c'entra niente, capito vale? Avanti genio, e persone con la geloso, sono miserabili, ci sono, e carogne. Non sanno affrontare la realtà, caro Valerio, anche con la bocca, capito? C'è gente che parla molto, molto, e nella realtà non valgono a niente, sono dei vermi schifosi. Perché usare la bocca per fare danno alle persone, fare appetito alle persone, quello è una cosa che io non sopporto. Se hai qualcosa lì e vieni e me la dici a me, cosa vai a sparlare, a dire, a fare, a raccontare balle, solo perché sei chissà che cosa, sei un verme schifoso, un miserabile, una garogna, un pederastra, un nulla facente, un nulla avvente, vai via, passa via, vai Valì, e vuoi di tutto c'è che entra qualche pipistrello, Valì, e via ti faccia, oh già c'era da mangiare pipistrello, allora vatta a pignare tu, anche le tite c'è, allora, le tite c'è di quante ciccioni, sempre mangiando, sta. Vai a chiudere, vai Valì, la siamo Genove, attento Franco, oh Franco, anche ta tromba, quello entra, poi se ne va, Ebbene, intanto dai il camper, Eugenio, bello pulito, una bella spazzata dentro, lavato per terra, è pulito anche fuori, ma qua c'era pure il vaporo, la scoppa quella con l'acqua, solo acqua, pure shampoo al naturale lo lavi? No, no, quello sgrassa, le impurità, le cose della strada, dove rimane fermo, capito? No, no, va bene, va bene. Quel prodotto lì per i piatti è ottimo per lavare la macchina, perché la sgrassa, no, non aggredisce la vernice, non aggredisce niente. Bene, bene, bene. Ok, ok. Marco, stai straffogando. Il bello è che quando sta mangiando non parla, capito? Perché mangia quattro ganasce. Una volta poi c'è anche Valerio, non è un grande mangione, perché ripeto, con me siamo andati a cena qualche volta, non è un grande mangione, è che c'ha questi orari un po' balordi, capito? Lui mangia un piatto, è il dolce, non è che sta antipasto, contorno, tutti le cose, mangia un piatto e il suo dolcetto e poi basta, non è un grande mangione, è che ha degli orari balordi. E possiamo andare a fine settimana, venerdì si può andare, venerdì, una settimana non fa, dove andare? Possiamo organizzare, sì, oggi, possiamo organizzare, sì, io dico a Valerio, scendo anche a Valerio, da Alghero, facciamo il risalto, Marco, Gianni, dove Stefano è rientrato a Olbia per lavoro, stiamo noi a, stavo mandando così ogni tanto, così che mi hanno chiamato moglie, Sì, lì dove vicino dove sei tu. Beh. Ho detto lì dove sei, vicino dove sei tu. Pronto? Con chi stai parlando, Claudio? Con Genio stavo parlando. Che ha detto se organizziamo andare a mangiare una pizza, ho detto dove? Vicino a dove sei tu a Porto Torres. Ah, te perché che come serrata? Beh certo, vorrei bene anche tu, ci mancherebbe altro. E io? Possiamo organizzare, ho detto un fine settimana. Possiamo organizzare, capito? Perché fine settimana c'è sempre le novità, le cose. Ieri c'era il giro tie break, l'abbiamo di niente, durata le 2:30 mia figlia, alle 2:30 hanno chiuso, che alle 11 c'era un gruppo, capito? E beh, finito è Marco. Ehi, ehi, ci sono lavato le mani adesso. Bene, bene, c'è un po' di freddo però qua, mi sa che mi metto la giacca. Poi quelle macchine là bruciate, io penso che siano altri vandalici, cioè i ragazzetti che si divertono proprio per così, per divertimento. Solo in rari casi ci può essere anche una ripicca, ma in rari casi penso, boh, non lo so. Io metterei fuoco al Parlamento più che altro. Io metterei fuoco che c'ha la lingua lunga, che... Devi subire, Claudio. Sì, subire. È un periodo che non sto subendo molto. Quindi io chiedo a penna. Perché dai, uscia via. Non mi schifoso. Vabbè, vale. Ho detto che andiamo, adesso quando ci organizziamo, ti chiamo e scendi. Andiamo qua a Monserrato, all'ingresso di Sassari, dove c'è mia figlia, hanno aperto un locale nuovo. Fa ristorazione, la pizzeria, queste cose così, ma è sempre pieno di gente. E figurati, se non te l'avrei detto, non ci aspettiamo anche. A Mastro Giulio, se quando torna in forma, attento a Mastro Giulio, si sta godendo la vittoria della Juventus, esci Maria Gia, vabbè, allora, secondo me quella ce l'ha col cane, è sempre appeso, ma secondo me questo non è un cane, è pipistrello lo stesso, ma non avrei contagiato a Filippo, no, Marco. No, è passato troppo tempo. Quando sono venuto lì non ero pipistrello ancora. Che miseria, è sempre a peggio, sempre in piedi, a controllare a faccia, sembra un cavallo, che... porca miseria. Tocca chiudere le stanze da letto perché sta sempre controllando dove vuole salire i sapelletti, ma è un ciccione di merda, non ce la fa, l'altro giorno stava saltando, si è sbattuto al comodino. Ah, poveretto. E beh, la porta da rifare, la porta che ha rotto. Eh sì, è da rifare tutta la giuntura. Mi hanno chiesto 120 euro, cioè, è da rifare tutta la giuntura perché ha spaccato proprio il montante dove c'è la giuntura, perché le porte sono tutte aggiunte, no? Tutto rotto, assolutamente. Una porta soffietto in legno che mi è costata una barca di soldi, vale. Era chiusa, l'ho chiuso in cucina perché c'era gente, si è incazzato, sembrava Goldberg, è passata in mezzo alla porta, l'ha spaccata in due. Porca miseria, una cosa, sento sto rumore. Il legno, poi il legno grosso, non quello in PVC, quelle cagate, il legno grosso col vetro, un vetro verticale da una porta di 2 metri e più, a legno verticale quasi tutta la porta, a vetro verticale quasi tutta la porta, meno male non si è fatto male, l'ha presa proprio in mezzo dove c'era la giuntura del soffietto, l'è passata in mezzo come se la porta fosse aperta, l'ha spaccata, disintegrata. Mamma mia, guarda, mamma mia. È bello che non lo manco nulla, l'ho sgridato, ma io il cane non lo picchio perché non si picchia il cane. L'ha capito, si è nascosto, gli aveva fatto danno, ha detto se esci, ma la setta male, te stacco le orecchie. Nulla teme che non ci chiama, io che ci abbatto. Non me l'ho preso a grida, si è nascosto, non mi ricordo manco dove si è nascosto. Sotto il letto se n'è andato. Penetra sotto il letto, lo solleva perché non lo tocca, lo solleva. Ehi, l'ho sentito, mi l'ho sentito. No, è un bestione. Dall'ultima volta l'hai visto tu, ha preso qualche 3-4 kg in più. Adesso sui 38, 37, 38. Ma robusto, non ciccione, è una cosa, Lucia. Bravo, mi. Poverino, non c'è niente. Adesso l'ha sgridato, mia moglie si è andata la sua cuccia perché sta mettendo di nuovo in camera da letto. È bravo, però se lo fa incazzare, madre di Dio, ti ammazza, tutto quello che trova davanti sembra Attila, non cresce più erba, aspetta che guardo cosa mi è arrivato al telefono, che prendi Marco. Le ringrazio che era quello lì, fosse stato il preso a Canario, ti sfondava la porta blindata, mi. Sentendo il fischio del padrone. Mamma mia, quando lo chiama il padre, il ragazzo di mia figlia, perché l'ha comprato lui, l'ha portato lui, che prima lo teneva a casa, capito? Poi appena era, insomma, un po' addestrato me l'ha portato. Mamma mia, quando sento il padre, già è cosa di metterti davanti, sì. Ui, ho mollato una scala l'altro giorno, si salvi chi può! È partito, anche la ringhiera si è portata appresso. Una potenza, dai. Mi sa che dovevi chiamarla tu, Tyson, capito? Invece quello di Gianni già... non è così estremo, dai, è buono, insomma, danno non ne fa, non credo ancora, almeno. E poi il tuo è più pesante, più grosso, più, come dire, non prepotente, come dire, non mi viene il termine tecnico. No, ma con tutto rispetto, quello di Gian rispetto a Filippo è un chihuahua, l'ho già lasciato per. Ho visto io quello di Gian, Marchiane, ben messo, ma Filippo è troppo, troppo grosso, è forte come cane, è un cane molto, molto forte, molto. Non ha ostacoli, no? Lascia perdere. Sto dicendo che quando vieni te le faccio vedere. C'ha due coppe di traino, 100 kg, 100 kg, capito a carrello, a Alghero, mi. Alghero. Non ci ritocco la manifestazione che abbiamo fatto al Mariotti o Valè, dei cani, col carrellino. Infatti lui è forte di petto, a pettorina c'ha sempre, perché il messaglio non attiene, il collare non attiene, da piccolo. Pettorina, carrellino, hanno iniziato con 60 kg, poi 60 kg di peso ne ha anche persi, è partito ne ha persi. Ok, con 60 kg c'erano già la lingua fuori, lui è partito di corsa e ne ha perso i pesi, ne ha perso i pesi al carrello. Come abbiamo messo 100 kg che l'ha mollato l'istruttore, vai, è partito dun dun dun dun dun dun dun. Le cose che ha fatto in quel campo, una cosa allucinante. Infatti mentre il settore ha detto qua, io ho una 600 che ogni tanto non parte, darmi a Filippo che la mattina gliel'attacco così la fa partire lui. No, ma è grosso di petto, tira, ma tira. Diventa un pericolo anche la mattina quando mia moglie lo porta, perché se vede qualcosa che le interessa ti tira, ti mette a bandiera, è proprio forte. Abbiamo detto due coppe, sì, due ne avevamo fatte all'Alghero, due. Una al Mariotti e una alla zona industriale. L'ha organizzata mio cugino, Massimo Matti. L'ha organizzata lui, figlio di Angelo. L'ha organizzata lui. Ma belle. Poi non ne hanno più fatto, E il resto, le mostre, le cose che fa, Oristano, Annuoro, una ce n'era qua a Sassari molto bella, alla promocamera. Adesso siamo un po' fermi, perché la società, non è che abbiamo molti soldi per organizzare, e quindi siamo un po' fermi, ma adesso appena inizia il tempo bello, penso marzo, aprile, qualche gara la facciamo, ma è una gloria, no, io non mi sono pisciato sotto, e c'erano questi cani, e lì c'era un bel pitbull anche, un boxer, c'era un, non uno sharpei, uno, l'altro, ce n'era, facevano ridere perché sì, erano abbastanza tosti, ma ho detto Filippo gli si ingrebba, perché lui c'ha proprio a lui le piace tirare, capito? Da piccolino, sempre, e quindi c'è un petto allucinante, ha detto gli si ingrebba. Noi siamo partiti prima con 50 kg, siamo partiti 50, era sì, 50, poi 70, 50, 70, 90, e ha fatto, mettene a 100, cosa già si ritira. Ne perdeva i rulli, no, sono dei pesi, quelli, ti dico, quei pesi in ferro che metto, e li perdeva, partiva in quarta, capito? Mettono un coso davanti, no, un tipo quei tipo cani finti, quei cosi così a motorino, lui parte, loro devono prenderlo col peso, però, esatto, mi sono fatto il giorno, Sant'Antonio e me. Avanti Genio, anche Genio c'è un bel cane, come va il tuo? Sempre tranquillo, Zingare non le sta morsicando, ma lì con quello è difficile che ci mettono le mani al cancello, chi si morsicheggia, quello morsica, vabbè. Capito Valè, già ti avviso quando c'è qualche manifestazione ad Alghero, così ci vediamo, ci facciamo, tanto è lì vicino a te il Mariotti qui. Forse perché non ne fanno più coppe, perché tanto vince sempre Filippo. E lui a Paola, no? La che fa sua, no, perché sia il mio, ma numero uno. Ma si mettono a ridere anche gli altri. Guarda, l'ultima che abbiamo fatto, ti ho detto, c'erano dei boxer per piazzarti, c'erano due pitbull, c'era un pastore maremmano fantastico, ce n'erano dei cani di razza ben piazzati, ce n'erano, c'era il pastore tedesco, l'Anchi ci siamo già di a 50 chi, ma dove andare, bellissimo il pastore tedesco, ma non è un cane che ha forza come questi. L'inglese lo usavano per abbattere i tori, o marco, lascia perdere, non forza allucinante. E questo poi, questo mio, non so se è l'unico così, perché è un fuori Italia, perché i genitori del mio erano molto molto grandi, molto molto grandi, molto molto grandi, come anagrafe c'hanno tutte e due, bulldog inglese, compagnia eccetera, però mi diceva Mario che sicuramente il padre era un po', aveva un po' l'incrocio col paese canario, sicuramente, perché è troppo grande Filippo, e due volte del bulldog inglese normale, sia il maschio che la femmina, hanno i piedi bassi, sono ciccioni, questo è alto e grosso, questo sembra un cane normale, capito? È proprio alto, grosso, robusto, maledetto ciccione di merda, e guardami, se ti ammala, le sali sul letto, te ne stacco le orecchie, e vabbè, va bene, quindi oggi non è più entrato nessuno nel cancello, così è, ho detto non è entrato più nessuno nel cancello, il tuo è un, mamma mia, un altro gamine, no, non ce n'erano giù, no, la prima che abbiamo fatto sì, è entrato secondo, però non aveva voglia, era un po' svogliato come cane, se no era ben piazzato, è entrato secondo, invece la seconda gara che abbiamo fatto di traino non ce n'erano i dogli argentini, e mica, oh, va lì, e oggi c'è un dogli argentino, un altro cane masetto, è poco e malo, mamma mia quanto è cattivo, dogli argentino è micidiale, dogli argentino c'è una presa di bocca, chi si tagrafa deve fare da pezzi, mamma mia quanto è cattivo, ma lui c'è sempre un genere molto preparato in queste cose, che lui è iscritto ad un'associazione appunto di cani, e ha detto, Chantal, dove argentino è meglio dare del lei, anche se c'è un cane grande, se c'è, però è sempre meglio dare del lei, perché è un cane che se parte non molla. Sì, è sempre categoria di molossi, sempre come il mio, anche il pitbull, il bulldog argentino, il bulldog inglese, il bulldog francese, quello che c'ha Gianni, lo Sharpei, sono tutti molossi qui, il boxer, sono tutti molossi, però di quella categoria dei molossi più cattivo è l'ogo argentino, non teme molto, non teme, è un cane bravo perché è bravo se è stato educato come si deve, ma se è stato educato per fare del male, stai tranquillo che non ti avvicini, e adesso le guardo, riprendi Marco. E io. Ricordate che negli anni 70, fine 70, inizio 80 c'era sempre la moda del pastore tedesco o del Doberman nei cancelli delle ville, sempre o Doberman o pastore tedesco a difesa. Adesso questi cani di adesso molossi se li mettono in tasca, vero, no, non è, ormai non ne vuole più nessuno Doberman, è proprio una moda, è passata la moda, ma solo la femmina o anche il maschio. Ah, sempre, caspita, a me avevano detto la femmina, sì, che cresceva il cervello e non c'era spazio nella scatola cranica. Non ne sto vedendo più Doberman, raramente ne vedo qualcuno. Adesso vanno questi cani qua, Dogo, Presa Canario, Pitbull, Rottweiler, eccetera. Ma sai che sto mandando la foto a mia figlia, che la manda a mio genero, del tuo, capite? Del dogo argentino tuo. Manda tutto, già vedo, con wifi già li vedo. Oh, comunque ultime notizie, sembra che ci sia suicidata quella ragazza. Hanno trovato un coso di medicina. medicinali dal veterinario, quindi baccani, si deve avvelenare. Poveraccia. Aspetta, vabbè, non sai mai cosa ripassa in testa alle persone. Beh, adesso non ne hai foto di recetti, allora va via una, andiamo avanti. Ma è puro? Guarda, mia figlia sta mandando al ragazzo, fra un po' ti do il responso. Perché Mario aveva proprio il dog argentino. C'è la testa un po' diversa, gli occhi non sono rossi. Responsor c'ha un po' di qualche incrocio, perché il muso è troppo allungato. Sì, dopo ti do il risultato finale, comunque un bel cane. Vabbè, se non l'ha fatto molto va bene, cioè, se gliel'ho spacciato per dog argentino non va. Ma te l'hanno regalato, l'hai pagato. E vabbè, comunque già si vede un bel cane. Capito? Già va bene. Ma il mio l'hai visto tu? Non sapevo la voce. Così mi è costato ciugare. Così è costato a mia figlia nel genere, sono due pazzi. Per carità. Vale! Oh Vale! Chiuse lì le finestre! Manda! Eccolo qua, aspetta. Adesso. Adesso glielo mando. Sì, no, è bello, però mi diceva, mio genero, c'ha il muso troppo allungato, c'ha qualcosa di pitbull, mi. C'ha qualcosa di pitbull. Vabbè, quelli sono così. Quelli sono così, no, non c'è niente da fare. L'indole del dog argentino è. E la strazia, città grafa, apri di cielo. E tu non hai cagnetta, Vale, non hai cagnetta, perché la tappiniera c'ha i gatti, capito? Qualche giorno se lo mangiano, perché i gatti mangiano i pipistrelli. Vero Marco? Attento, qualche giorno si è addormentato il gatto, te le mangia le ali. Eia, soprattutto una che ha sempre fame. Eia, è impegnativo il cane. Il più grande è, più impegnativo è, non è per me. Il gatto è più autonomo, se ne sta per i cavoli suoi, c'ha la sabbietta, pure in macchina c'è la sabbietta. Capito? E noi ne abbiamo avuti sempre in famiglia di gatti. Cani, io ne ho tenuto uno un periodo, ma era una rottura di balle sto cane, si trascinava il tavolo. Vabbè, il tavolo è leggero, il tavolo tondo o d'America, si trascinava il tavolo e non ho più palle quel cane. Era un husky, mi pare, Siberian husky, tipo cane da slittami. L'avevo tenuto per una persona, poi siccome mi stava creando problemi, gli ho detto per favore, non lo posso più tenere. Certo che mi incasina un po', capito, siccome non lo voleva, per non tenerlo a casa dei genitori, che la madre non voleva, me l'aveva dato a me che c'avevo il terrazzino. A un certo punto gli ho detto di riprenderselo perché non stava creando problemi, capito. E infatti a Malagana se l'è preso, capito. Per non metterlo a casa dei genitori l'ha scaricato a me, con la scusa che amico, ho detto gli amici ti cercano sempre quando gli serve qualcosa, capito? Mi ha stato attenti anche con i gatti, mio Marco. E oggi adesso ti ho fatto la foto del cavallo che c'ha mio genero, non ti spaventare, uno dei cani più grandi e feroce al mondo, preso a Canario, 70 kg pesa. E poi Claudio, perché questa moda di avere cani grossi, cani feroci, cani aggressivi, cioè porta problemi a un certo punto, più che altro il cane. Può essere aggressivo, può attaccare altri cani piccoli, boh, non lo so. Io vabbè, ma la vedo dal mio punto di vista. No, assolutamente, guarda, il cane di mio genere cammina senza guinzaglio, quindi tu ti ho la testa che è un cane cattivo perché socializza con tutti, l'importante è non rompere le balle, perché se ti prende ti va a pezzi, ma ti va a pezzi proprio, e non è che sta lì a girarci. No, sono il muso, cioè là non ce l'hai tutto. Aspetta, oggi ti mando una parte perché non ci sta tutto. È una cosa allucinante, bello, molto bello, ma bello veramente, è una cosa indescrivibile quel cane, ma grande, alto, mi passa sotto Filippo, viola di due, alto e grosso, ma bello veramente, molto bello quel cane, c'è la mia gente. Poi un po' di spese, anche tu l'hai detto, spese, mangia quanto un cristiano, fa la pupù quanto un cristiano, eccetera, eccetera. No, è così, quello gli ha tagliato le orecchie, quello è così, non ha manco coda, ma è alto, un bel grande, 70 kg pesa, no, no, non c'ha foto, mio genero ce li ha, Melaria non ne ha, tutto di lungo, proprio grande, come altezza. Adesso glielo dico a Maria, mandarmela una. Vale, fai, sto chiamando a mio genero, riprendi Marco. Ehi, ehi. Oh, mamma piacciono i cani da lecca, i cagnolini piccoli, quelli che te li metti dentro la borsa. Ma quelli non sono cani, sembrano gatti, una sottospecie di gatto sembrano. Vabbè. A me piaceva tanti anni fa il pastore tedesco. Come forma, come colore, capito? Però è sempre una rottura di ioni. Ma io ci sono cani da lecca, cosa c'ho cani? Ma sono belli come cani, ma sono cani da lecca, li chiamo, nel senso cagnolini d'appartamento, molto affettuosi, molto cane, deve essere cane o maschio. Ci faccio un cane da lecca, che mi cocco, ma delle chili belli, fanno di altro, così che su cani. A Marco la giro, che a lui le piacciono quei cani lì. No, a me no, piace una mamma, però poi capito, magari se lo prende e siccome quello deve andare fuori a fare bisogni, me lo scarica a me, capito? C'è quel rischio, e allora niente cani, nemmeno piccoli, meglio il gatto. Ma questa è la sua proprio? Ma ce l'ha così? Baba? No, Marco, ti giro questa foto perché è una cosa allucinante. Un bambino sembra, ma roba da matti, cioè allucinante. Non lo sapevo, EJ. Porca miseria, Dunia, Travizzi. Roba da matti, non lo sapevo che Chihuahua era così. Sì, non uso di vegani. Marco, ti mando una foto troppo bella. Ecco il cane di... Il cane di Eugenio, Isciu Maria, super dotato, complimenti. Com'è che si chiama? Londri. A te, Loria, grazie a Dio allora, responsor del medico, è un dog, però c'ha... il muso è un po' troppo lungo, magari una categoria un po' diversa. Che bello! E questo è? Anche questo c'hai? Ah, oh, questo è favoloso, che bello! Che musetto che c'hai, gatto! Guarda, un carissimo amico del mio genero c'ha 12 coppi di Praga. Chihuahua e Pince, sì, bravo, vedi, si è preparato. Qua ci sono i dottori a casa, i due veterinari, quindi lo sanno. Sì, no, il tuo è sì, un dog argentino, però diceva Mario che rispetto a quello che aveva lui c'ha il muso un pochino più lungo, più robusto il muso. Quello che c'aveva lui c'aveva il muso un po' più arrotondato, però già è un dog argentino. Va bene. Ok, dai, io vi lascio 10 minuti, vado a portare a Filippo, che sono già le 7:30, ok? Se ci siete ci sentiamo dopo, intanto Valerio al computer, Marco, ti trattieni? Ti arrivo subito. Ehi, ma quella trave richiede Chihuahua o del Togo? No, del Chihuahua, hai visto cosa c'ha? Madre di Dios. Cioè, se l'uomo in proporzione avesse una cosa del genere sarebbe un cavallo. Ma poi un cane piccolino così, ben sistemato, grazie a Dio. Io l'avrei chiamato Rocco. Davvero, mi chiamo già me Rocco. Un cane così piccolo, Bobo. Non sapevo io che fosse ben sistemato. Se la razza è piccolo così com'è. Capito? Allucinante. Va bene, dai, vado a portare a Filippo e risalgo. Se siete qua mi fa piacere, se no tenete duro, ok? Vado, l'ammazzo e torno. Ah, così è, complimenti allora. Quindi rimangi di buoni così tu, senza la tua nuda. Guidi? Perfetto, oggi. Allora no, a me non mi buttare con un gamper, mi piglio lo burma. Bello, bello, bello. Una no, bella foto veramente, molto bello come cane, tutte e due, anzi tutte e tre. Sì, molto bello. Ok. E ci porto a Filippo, che è patente, mi tira la Ian, e dice, io se no sollevo la gamba, mia papà. Sì, sì, un delinquente, è un delinquente, ma niente, è un delinquente, con il muso attaccato alla porta. Con il muso attaccato alla porta. Dai, vado a portarlo, ci vediamo dopo, ci sentiamo dopo. E a Londra, mamma mia, c'è un po' di abbio, come tipico del dopo mangiato. Già bene o male qualcosa mi arriva. Ho messo il wifi e già mi arrivano le foto, già me le manda, perché mi è finita l'abbonamento allo smartphone, capito? Il 7 lo devo rinnovare, se no non posso navigare senza il wifi. Aspetta, Chihuahua, bubu. Immagina l'uomo in proporzione, se proporziona all'altezza avesse una cosa del genere, sarebbe mezzo metro, boh. Ah, il CRT 2000, sì, è un baracchino, 40 canali, AMFM che ha quel display a cristalli liquidi tutto a colori, no? Ehi, bello d'estetica, però, mamma mia, li temo questi piccoli, io ho avuto una brutta esperienza con due piccoli. Due baracchinetti piccoli tipo questi e troppe pecche, spero che quello sia fatto meglio. Però guarda, se vuoi un bel 40 canali devi comprare o il Cobra 29 l'X, e se no non saprei quale consigliare. Proprio belli, più del 48, il Cobra 29 e l'X, guarda, è raro vederlo in Italia, ce l'ha Gianni Lo Piurum, molto bello, esce anche bene. Sì, guarda, te ne accorgi perché quel LED, ci sono due LED affiancati, quello di destra diventa rosso quando sei in FM, invece quello di sinistra diventa rosso quando trasmetti. Poi vabbè, c'è il manuale, c'è tutto là, è facile da usare. Meglia. Sì, volendo può mettere anche il frequenzimetro. Ma tu ci modulavi con i camionisti sul 45 prima? Va, non si stacca la portante. No, sai perché? Per chiedere informazioni sul traffico anche in locale. Perché ricordati, quello volendo lo spegni, premi un tasto. Tieni premuto il tasto, lo accendi e diventa 400 canali, e quindi puoi andare anche sul 45 con i camionisti a chiedere informazioni, capito? È abbastanza versatile, dai. E anche lo scontrino c'era, mi sarei visto, 90 euro l'avevo pagato, nuovo costava 100, tipo 145, 155, una cosa del genere, nuovo. Quello invece era un usato garantito, capito? Infatti è sempre andato bene. Oh, non riesco a sbloccare la portante, ma come mai? Cazzo, mi si è bloccata. Eia. Se tu vedi di notte, guarda, Intec HR5005. Ha un bel di nomi, il mio ha il color, le cifre arancioni. Di notte, quando non c'è luce, no, che sta guidando di notte, si vede tutto il frontalino illuminato ed è una luce tenue che non dà fastidio, capito? Vedi tutte le voci delle manopole, le voci dei tasti, è un bel apparato. E lo stanno dando, chiamato Anittone, AT55555, ricordati, Anittone, Alfa Tango 5555, lo sta dando Media Globe a 139 euro, quello è un bel apparato, e c'ha un bel di canali, c'ha le bande laterali, le FM, tutto, c'ha i canali Alfa, sempre sui 5 erano, ma meglio dai, all'interno dei 40 canali è sempre meglio. E Polonia sei mai stato? Perché lì hanno i canali diversi, lo sai, hanno i canali che anziché il 5 finale sul frequenzimetro, anziché il 5 finale hanno lo 0 finale. Beh, buono dai, buono. Comunque ho visto un bel camper senza baracchino, vedo un bel camper che non hanno antenne di nessun tipo, hanno l'antenna TV magari, no, l'autoradio, ma antenne baracchino nulla, non tutti lo mettono il baracchino, non tutti, è dalle che si blocca, e l'antenna dove la mettono però? Ah, proprio quando vanno in gruppo, dai. Beh, quello sì, però con l'antenna esterna non c'è paragone, cazzo, fai un bel di chilometri, anche con 4 watt fai un bel di chilometri. Eia. E non molti, io credo, a Sassari credo di essere uno degli unici a avere l'antenna in macchina, lo sai, Claudio non ce l'ha, guarda, ce l'ha solo Gianni Lopirum, il baracchino anche in macchina, e io, tutti gli altri non ne hanno, Claudio non ne ha, ben pochi, ce l'ha Secchi, Antonello Di Rossi ce l'ha in macchina, però non sta entrando mai, forse all'ascolto, Antonello ci sei, e che tipo di furgone ci vuole? Eia. Magari con linearetto. Una cosa non ho mai capito, se tu sei per esempio in una zona pianeggiante, tipo pianura padana, ipotizziamo, no? Se con 4 watt arrivi a tot chilometri, con 70-80 watt, quanti chilometri più fai? Quello non l'ho mai capito. Cioè l'aumento di chilometri in base ai watt. Non me lo ricordo, c'era una regola. Oh, l'antenna baranautica. Ehi, guarda, io ho un'antenna da camper, ho voluto comprarla per provarla. Proprio volevo provarla. È un'antenna nera in fibra di vetro che funziona senza la massa, fatta apposta per camper o imbarcazioni, però siccome per le imbarcazioni di solito sono bianche, questa è nera. Guarda, una volta messa in macchina non prendi nulla, c'ha un'attenuazione sia ricezione che trasmissione notevole, non prendi nulla, lo sai, ricevi bassissimo, trasmetti bassissimo, non so perché le abbiano fatte in quel modo, capace pure che se la metti in una barca e vai sull'acqua magari va meglio, però quella è fatta per camper, secondo me serve solo a viaggiare in gruppo, a brevi distanze, brevissime distanze. Eia, colore nero, e ha una carica alla base, la base è ingrossata, no? E dentro c'è una carica, una bobina, però guarda, messa in macchina era terribile, terribile, da Piazzale Segni non arrivavo a Latte Dolce, a Santa Maria di Pisa, non ci arrivavo da Piazzale Segni, figurati, con 4 watt. Ma la cosa strana è che da camper, cioè il camper non va in acqua, fosse stata proprio per la baranautica, invece espressamente per camper, però diciamo che la puoi mettere anche in baranautica, allora sì che forse è utile. Sì, pensa che avevo speso 45 euro per quell'antenna e non serve a niente, ce l'ho sempre a casa, nuova. Guarda se c'è qualche camperista che o qualcuno che va in barca che la vuole, gliela do a metà prezzo, capito? A metà prezzo gliela do, 20 euro e se la porta via. Attenzione, binario 10, cambio. Ciao Gianni, ben entrato, sei in baramobile o sei a casa? A domo, papà. Ehi, è ben entrato, c'era Valerio, è al computer, Claudio è andato a portare il cane, credo, e ci siamo io e Eugenio, vai Gianni, per Eugenio. Ehi, aspetta che... uno, due, tre, cola. Ciao Eugenio, ben sentito, vai. Ciao, Rala. Ho voglia di sentire questo apparato. Bravo. Aspetta, Uno, due, tre, cola. Uno, due, tre, prova. Ehi, cavagava. Ehi, è già... Io ero andato da Sciam, poi sono tornato e ho acceso il baracchino alle 6 e qualcosa, dai. Bene. Adesso vediamo, lo senti anche tu e vedi com'è secondo te. Non bisogna parlare troppo vicino, perché sennò è troppo forte, bisogna stare 5-10 centimetri. Rispetto all'altra c'è un abisso comunque, già, un abisso. Che ti stavo dicendo, no, io ero dal cardiologo tutta la sera, poi sono andato a fare delle fotocopie, insomma. Ero impegnato tutta la sera, per quello che sono entrato adesso, sto arrivando adesso a casa. Ah, ho capito. Eia, dal cardiologo? Ma normali controlli? Gappa, tutto a posto. Ecco qua, adesso aspettiamo Eugenio, lo fa provare. Ecco qua, mi sto accomodando e apro lo squelciante, dai, non so che qua non arrivi, è che io sono schermato. Tu Beato ce l'hai davanti, Polo Torres. Cosa? Ho detto Beato, te ce l'hai davanti, Polo Torres, c'hai il mare davanti. Io ce l'ho dietro. Sì, che beati tu, ciao Claudio, ciao Claudio. Allora, perché non ce l'ho davanti il mare, sono già vicino, vabbè. Noi vediamo, tu vedi palazzi, pipistrelli, ciao. Lo vedi, però io ce l'ho più vicino, di te, in linea d'aria. E si conferma che ce l'hai più vicino di me. Fanculo, ste foglie bagnate, cazzo, mi si sono attaccate alla scarpa. Dimostra ciò che quando c'è maestrale qua picchia forte. Era bravo picchia forte. Lui non ho venti che non picchiano qua io. Se consideri che te ne frego 200 metri di linea di mare in altezza, cosa dici tu? Non lo so, ma io ce l'ho di fronte proprio, tutto libero, capito? Tutto libero davanti. Io vedo le barche mi da casa. Io vedo le barche. Le barche da nave. Le barche da nave. Già, non tu non hai idea di cosa si vede da qua su. No, dove sono io, la finestra, da sopra il tetto. Lascia aperte. Se siete sotto. Siete sotto, dal mio terrazzo Sassari è sotto, e i miei piedi Sassari. Quindi immaginati tu, se si vede Tintino, si vede tutto. Porto Torres, il porto, si vede Balai, là sopra il tetto. Io già lo so. Ma che ti sei salito sul mio tetto, già se ne vede sopra. Si vede tutta Sassari, si vede da una parte, poi dall'altra c'è tutto il mare. Insomma, già c'è una bella visuale, non è... Certo, non posso paragonare una grattacielo, perché è normale che si veda qualcosa in più, no? Avanti! Vedi, questa qui è una radio pulita, di Aruglia. Non è come quella là. Sì, va bene, promosso. Il microfono normale, però. Il microfono normale. Già, il grattacielo non mi fa niente a me, sappio, perché sotto, in piazza Cattello. Io ti ricordo che sono senza il palazzo, sono a 300 metri a livello del mare, tu sei a 160, quindi tu Sassari non lo vedi come lo vedo io, vedi la tua zona, capito? Io vedo a te da sopra, ma tu a me non mi vedi, non lo vedi la mia zona, capito? È diverso, lascia aperto, io cacciero, di cosa? Di Sassari, non so mi fate grattacielo di Sassari, se sali sopra il tetto lo vedi sotto il grattacielo. E lo dico, non è un grattacielo. grattacielo, io sto parlando del tuo grattacielo, dove abiti tu? Ah no, pensavo il grattacielo di Sassari, no. Vabbè certo. Superati 10 piani, e 10 piani, quindi. E figurati quello che c'è a fianco che è 14. Ancora più alto, ancora più alto. Io sono salito lì micidiale, vedi, quello supera la collinetta di nella parte di coso, di come si chiama, di dove abitava Natalino, quello lo supera, invece la mia non l'ho superata la collinetta, sono proprio lineari uguali, capito? Invece quello c'è anche quello supera, si vede la parte dietro, Sennori, invece Sennori non lo vedo. Oi Franco, avvagna Gignaroni, avvagna Gignaroni, questi sono segnali, questi sono segnali. Buonasera. C'è una riega fra, per carità, c'è un detto di Franco. Ui ui ui. Oh, ma io una cosa che non capivo mai è l'altro che abita sopra, no? Adesso è un po' che non si sente più, ancora più alto di te. 3, 4, 5, 7 massimo segnale, tu sei 9 mesi. Soprattutto come dicono gli americani, capito? Un euro per la radio, 100 per le antenne, purtroppo molti non lo capiscono, come mi bisciascio lì, una mantova ci vuole per uscire bene, se c'è spazio e posizione è micidiale. No, ma io con te ho un varco molto molto aperto sicuramente, perché c'è un segnale allucinante qua, 9-10 pieno proprio, e a potenza limitata, e quando sollevi arrivi anche 20, un bel segnale, quindi la tua zona con la mia sicuramente si vedono, magari più indietro no, però è quello, avanti già. Sì, tu pensa che Franco mi arriva con lo stesso tuo segnale qua. E tu quanto gli arrivi a lui? Non lo so, Franco, quanto ti arrivo io? Quindi arrivo numero 5, diciamo 9 attitudini numero 5. Appagato. No, qua arrivi bene lo stesso. Qua arrivi, devo mettermi gli occhiali per guardare, però provo a vedere. Adesso scendo con la scusa, adesso scendo per altre. È 9.20, sì, e io ti arrivo 9.20 già. K. Minchia, allora c'è la radio sorda, perché in una mi dai 30, in una mi dai 20. Io quando ti arrivo, visto che a lui arrivi 9.20 e lui ti arriva 9.05, fra. Vedi bene, la vicinanza, però a me mi arrivi 9.10, a lui 9.20, lui 9.05, io 9, e sono segnali molto, molto importanti, perché evidentemente sono proprio a vista ottica, però la distanza tra me e te è molto, molto più lunga rispetto a te e lui, quindi è chiaro che è così. Bene, bene già. Ma col Galaxy mi dai 9.30, questo cos'è, il Cobra? Aspetta, rifai il passaggio. Vai, siamo a me 9.20. Sei 9.30 tu, come faccio ad arrivarti 9.20, non so io. No, sei 9.30, scusami. 9.30 sì. Era 9.30 sei tu. Quindi il mio segnale da te è sempre quello, mentre da Marco è molto più alto. Marco c'ha un'apertura, dovrebbe essere, ce l'ho davanti e davanti, è come Luca, per quella zona lì prima di te arrivano, mamma mia, una fucilata arrivano qua. L'ho trovatami già quella ragazza, vedetelo. Sì, è morta. Sembra si sia avvelenata, l'ho trovato vicino delle pastiglie per cani, da veterinaria. Ma visibile l'hanno trovata, l'hanno trovata i vicini del fuoco. Sì, a 100 metri da casa Giulia, era di Zichenda San Giovanni. Io mi sarò già le frullate in testa. E beh, fra, tutto a posto? Meglio così, ti mando avanti Eugenio, avanti Eugenio! Vedi Eugenio con un gamper, e Eugenio! Ma deve essere, sta posteggiando e sta andando a casa. E Marco? C'è Marco, sì, Marco? Eia, sì, sicuramente ha fatto la prova un attimino da giù per farlo sentire a Gianni, sta risalendo a casa. E beh già, come ti sembra? No, va bene Marco, lì mettete le amplificate e c'è bene davvero. Eia, sì, è abbastanza forte per essere un mic normale. La timbrica sembra buona, speriamo che non diventi più cupa con quello lì, il Proxel, con DM1000. Gli darà un po' di tonalità calda, ma cazzo, prima era nell'oltretomba. No, prima era proprio incomprensibile. Era proprio la radio, cazzo, troppo da non definire. Lui non ci credeva, forse ci rimaneva anche male, però era così. Non è che potevo dire diversamente io. Claudio! Claudio, né tu né nessuno, io perché dico sempre? Mi sento appeso per nessuno. Se uno esce bene, bisogna dire esce bene. Se uno ha un problema, bisogna dire che è un problema. Lì abbiamo messo il microfono, abbiamo cambiato il microfono, ne ha messo un altro. Massimiliano gli ha rifatto tutto l'impianto dell'antenna, adesso è favoloso perché arriva sempre allo 7 qua da dentro casa sua col campo e prima manco lo sentivo. Alla fine è stato riscontrato che quella era il 48 è tutto manomesso, tutto toccato, capito? È chiaro che col baracchino nuovo adesso può cantare vittoria, va bene. Roberto è partito da casa, sino ad arrivare a casa sua era sempre 9, dalla 131, Santiago 9. Come è entrato nel vicolo di casa sua, ho detto se non lo perdo qua, tutto a posto. Infatti è entrato nel vicolo di casa sua, Santiago 7, non c'è niente da fare, tutto a posto, tutto in ordine. A riposo si va, una notte di va. No, l'Alan 48 ce l'ho io qua, l'ho aperto, ci sono tutti i trimmer, tutti messi, a differenza del mio, tutti messi al contrario, capito? Quindi l'ho richiuso e l'ho messo da parte, perché ci vuole lo strumento, l'analizzatore, tutto per metterlo nuovamente in linea, proprio completamente tutto duccato. E infatti adesso c'è il baracchino nuovo col microfono normale, il DM1000 ce la fa le connessioni, però col DM1000 il baracchino nuovo esce molto molto meglio. Sempre glielo ho detto io a Gianni, sempre che esce bene. Mia Franco, mi genio. E beh fra, molto ancora, devi aspettare quest'anno. Diciamo che ho fatto una domanda e sto aspettando la telefonata da lui. Ma ne hai 60? Già ce la fai. Io devo aspettare a 60 fra 2 anni. Non posso andare via prima perché non ci rientro. Con tutto quello che ho racimolato non ce la faccio. Devo purtroppo aspettare 2 anni, ma già passano, vai, già passa. A 60 vado con 42 anni e 6 mesi. E va bene. Pazienza, ci ho provato, devo aspettare. No, fai come hanno detto loro, vattene adesso e campi d'aria per 2 anni. Fra, la proposta mi ha fatto dirigente dell'Ips. Ma tu guarda, lì può anche andare adesso, può anche andare adesso per noi, va bene lo stesso. Però dice, può andare, noi lo facciamo tutta l'idoneità di servizio eccetera, però la pensione la prende fra 2 anni e 6 mesi. E cazzo è capo di aria. Gliel'ho detto, scherzavo, gliel'ho detto, Toto, non so se c'è casa grande, noi siamo in due, là, io e mia moglie, almeno mia figlia già si arrangia, ma mia moglie veniamo a casa sua, si è fatto una risata, ma così la liscio, boh, allucinante. Ehi, dimmi Eugenio. Eugenio. K, no, non sto usando il DM, questo è un microfono normale. K, no, l'eco è dell'apparecchio, Eugenio. Questo qui è il Magnum 980, c'ha l'eco incorporato. Come? Sì, va benissimo, te l'ho detto. Se vuoi mettere un microfono amplificato puoi riuscire ancora più forte, ma va bene anche così, Aspetta un giro, guardo nel cassetto, Marco, allora io c'ho l'adattatore, da 4 a 6 del Mobicom, pensi che vada bene? E cosa ne c'ho io? E Mobicom è tipo quello che c'ha lui, mi? Non lo so, prima bisogna comunque adattare alla presa a 4 poli i poli giusti, capito? Bisogna farli per quell'apparato comunque, anche con l'adattatore. Vabbè, poi ci abbiamo fortuna, l'adattatore va già bene, perché il Mobico è uguale a quello, uguale a quello. Adesso lo guardo se ce l'ho nel cassetto oggi. Quindi si prova prima di fare le connessioni, capito? E prendi fra. Vi saluto anch'io, ragazzi, mi stavano a portare giù il cane, non mi avete avvisato che erano le 8. Tu sei già andato, Maran, io devo ancora andare. Vabbè, ci sentiamo, io porto giù il cane e poi magari, non lo so se riprendo. Ci sentiamo domani direttamente. Ciao a tutti, avanti Marco. Cosa? Ogni abbrutto già. Sì, cosa? Ciao. E vabbè, già lo regolo, non c'è problema. Qual è il problema? Aspetta, ecco così. 1, 2, 3, prova. Va bene così. No, già, sto ripetendo troppo. Ciao Fra, mi approfitto, ti saluto, fatti sentire ogni tanto, siamo qua, ogni tanto ti ascolto sul 12. Fatti sentire, vieni a trovarci ogni tanto anche a noi. Ciao, un abbraccio, buona cena. Avanti, va lì. E io glielo regolo a Gianni, perché lo usa poco, ogni tanto si dimentica di regolarlo, quella è una bella radio. Ciao Valè, buona cena anche a te, a Musantrenda, avanti Eugenio, e se mi volete zicare, riprendi Marco lì. Ehi, un attimino, domanda, questo adattatore cos'è, fisso dentro o puoi regolare i fili all'interno? Spiega un po', è una cosa fissa, non pervenuta, dai. Sì, potrebbe mettere l'adattatore, però visto che lo usa fisso in auto, io direi di fare i 6 poli, cioè se col microfono lo usa solo con quell'apparato, tanto vale metterlo fisso a 6 poli. Speriamo che non inneschi solo quello, perché te l'ho detto, a me innesca, non c'è niente da fare, innesca. Io ho la base magnetica, forse per quello manca la massa dell'antenna, non lo so. Mi innesca anche con mezzo watt, con un watt, non è questione di watt troppo alti. Invece lo ZG non innesca proprio, capito? Invece il DM1000 a casa non innesca, solo in macchina mi innesca, capito? E ho messo l'autoascolto, l'ho messo a zero, ricordati, l'autoascolto deve essere messo a zero, se c'ha due trimmer interni, invece l'amplificazione la puoi mettere a quanto vuoi tu. Io per esempio il DM1000 l'ho messo a manetta, amplificazione a manetta, perché tanto se lo metto poi a metà, a tre quarti, se lo voglio più forte devo stare sempre a aumentare, aprire, a regolare, invece l'ho messo a manetta e lo lascio a manetta. Casomai comando il mic gain dell'apparato. Oggi, allora è a 6, 6 però è a 6, 6-6, non è 6-4. È un adattatore che non capisco perché ho fatto, l'ho fatto per allungare il cavo quando ce l'avevo in macchina, il Mobicom, perché l'ho avuto, sì. Che è una prolunga praticamente, non è un adattatore, è una prolunga che però si può sfruttare, che abbiamo il maschio e la femmina, capito? Ho il maschio e la femmina e il coso ce l'ho già io, quindi il connettore ce l'ho già, lo spinotto ce l'ho già, ma sì, però è da 6 a 6, maschio e femmina, capito? Una prolunga, non è un adattatore. Pensavo fosse da 6 a 4 avremmo risolto già il problema, invece è maschio e femmina, è maschio e femmina, vedi che entra qua, entra uno con l'altro, entra te, ma una chat con te è al vita, maschio e femmina, sì, ma più lunga, non è un adattatore. Questo l'avevo fatto perché avevo il microfono corto, Marco, capito? Microfono corto per la macchina. Siccome passava sotto, usciva da vicino allo sterzo, allora avevo fatto la prolunga. Io conservo tutto, però questo non va bene per Eugenio. Eugenio, pensa che uno degli apparecchi che ho ha l'attacco microfonico tipo spina telefonica, come la scheda di rete del computer, è presente quella si poli. Non mi ha copiato, Dio è ok. Ho detto, pensa che ho un baracchino che ha l'attacco microfonico tipo spina telefonica, anzi esattamente tipo la spina, la scheda di rete del baracchino, del modem, capito? Ok, ciao G, buonasera, buon tutto. Io ne approfitto per buttarmi un po' di bottiglie di vetro, un po' di bottiglie di plastica che ce le ho accumulate qua, pronte a buttare. Ci sentiamo domani. Chiudo anch'io, dai. Ciao Claudio, buona cena, ciao Valerio, ciao Gianni, tutti quelli all'ascolto, dai. Ciao ciao, a domani, vai Claudio. Ok, ciao Marco, buona cena, buon tutto, saluti a casa, ciao G. Saluti anche per te, buona cena, buon tutto a tutte e due, grazie del Colosseo, grazie di tutto. A domani, anch'io chiudo e vado a cenare. Ciao, buonanotte a tutti. Eia, ciao ciao.